Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Il rap non può stare lontano da Mebius e questa volta ci entra con un sacco di scienza. Con un sacco di scienza, con il rapper scienziato? Esatto. Tra poco, già qua. Versi palindromi, teoria del tutto e algoritmi matematici. Questi gli ingredienti del sound di Mistaman, il rapper scienziato. Un grande matematico indiano, un po' di storia sui segni matematici e una collana di ebook che stanno intorno ai 40k. Dove si trova il corpo? Quando è stato sepolto? Cosa è accaduto sulla scena del delitto? Ce lo dice la geologia forense. Scienziato. Mista non è un artista, ma è uno scienziato. Federico ci ha già raggiunto. Ciao, è Mista, qua. Mistaman, o anche Alessandro Gomiero per l'Anagrafe. Ciao a tutti, benvenuto. È un piacere essere qui perché prima di tutto sono io vostro grandissimo fan. Questo adesso la dice, ma non è vero. È vero. Appunto, c'è un po' questo gioco nella mia musica di definirmi scienziato. E diciamo che questa roba è riferita soprattutto al fatto che sono abbastanza ossessionato dalla tecnica, quindi nei miei testi c'è una complessità che a volte mi fa paragonare. Ora avremo tempo di sviscerare e di raccontarla, devo dire. Intanto introduciamo il suo album, che è uscito da poco e si intitola M-Theory. Cioè, mica una teoria da poco, la teoria del tutto. La più ambiziosa. Esatto, diciamo, siccome Witten, che è quello che si è inventato la vera M-Theory, che è una teoria di fisica, una teoria del tutto. La vogliamo definire, è una teoria del tutto che combina matematicamente le 5 teorie delle superstringhe e la supergravità ad 11 dimensioni, nonché le 4 interazioni fondamentali. Dunque, Mistaman, cosa ne pensi tu di quelli che ritengono che la teoria delle membrane o teoria madre sia associata a differenti teorie di superstringhe in base al principio della dualità? Ecco, mettiamola così. Diciamo che, ecco, dopo questa domanda metteremo subito in chiaro che non so nulla. No, non è vero. Un po' sono appassionato in realtà di queste cose. Tant'è vero che questa M-Theory mi ha affascinato al punto da dare il titolo al mio disco. E la M, che è lasciata alla libera interpretazione del vuol dire parecchie cose, devo dire, anche nella teoria reale. Esatto, Witten appunto l'ha lasciata libera, ha detto fate un po' quello che volete di questa a M a vostra disposizione. Io me la sono presa e l'ho fatta diventare la M di Mistaman e quindi ci ho fatto un disco. Anche in copertina devo dire che, ecco, per chi vuole può ovviamente acquistarlo, ma può vederlo anche su internet, è piena di algoritmi, di formule, di grafici. Che cosa rappresentano? Sì, allora nella copertina ci sono appunto io davanti a una lavagna e queste formule rappresenterebbero le mie teorie che poi vengono esplicitate nel disco. Le formule sono prese da un trattato originale sulla M-Theory, quindi ho cercato di evitare di fare brutte figure. Vero. Esatto. No, noi abbiamo controllato, in effetti Federico, torna tutto. Allora, andiamo ai testi perché tu sei un giocatore abilissimo, ti hanno anche definito così con parole metriche. Io direi, se voi siete d'accordo, di far sentire questa canzone Irreversibile e poi la spieghiamo. La spieghiamo poi, ok. Yo. Ecco perché molti sono pronti a fare ogni cosa per denaro, si può fare ogni cosa col denaro. Puoi sentirla la bugia più grossa che sentirai mai. Fai un lavoro che ami e non lavorerai mai, ma la pensi come me su come guadagnarli, che i soldi devi farli a discapito degli altri. Piuttosto so dei dubbi su una cosa, allora è questa, che poi si può aver successo anche con una vita onesta. La crisi irreversibile, il mondo gira attorno al cash, che è difficile, non mi potrei convincere mai che non sono i soldi a darti la felicità, anche se lo sanno tutti quanti qua, la verità qual è? Devi fare la carogna e fregatene degli altri, quel che conta veramente avere tanti contanti. Secondo me sei fuori se pensi che magari le cose migliori sono quelle che non paghi. Le cose migliori sono quelle che non paghi. Secondo me sei fuori se pensi che magari quel che conta veramente avere tanti contanti. Devi Allora, i più attenti si saranno accorti che, terminata l'ultima strofa della prima parte, poi tu ricominci la legge al contrario. Esattamente. Cioè, un testo palindromo. Esatto, questo è un testo palindromo, quindi sono 16 barre, noi le chiamiamo così. Mm-hmm. Che poi ci spieghi cosa sono. Beh, è semplicissimo, ogni rima è una barra, quindi qui sono 16 barre. Arrivata la 16ª barra, iniziamo a leggerle 15, 14, 13. Torni su. Torno su e quindi si mantiene l'integrità del testo, ma non solo, anche il significato del testo si ribalta, quindi è doppiamente palindromo. Infatti la cosa strepitosa è che all'inizio, diciamo nella prima parte, tu accusi insomma questa società di essere legata un po' al soldo, all'economia. Non solo, celebro il dio denaro, mentre la strofa ribaltata dice che alla fine i soldi non contano poi così tanto e sono altre le cose importanti della vita che ti realizzano. Quindi un brano specchiato, e tu sai che però anche la simmetria è fondamentale, no? Nella fisica, nella scienza. La supersimmetria, esatto. Citando appunto la teoria delle superstringhe. Sì, diciamo che sono abbastanza affascinato da appunto la convivenza degli opposti, le strutture ricorsive, appunto sono cose che poi in natura esistono, sì. Nella fisica ritornano spesso, e appunto questo essere affascinato da questo mondo poi lo metto nella mia musica. Qui c'è un vero e proprio studio, diciamo, della metrica del testo, e appunto uno studio sul significato e anche proprio sulla parte più tecnica, quindi un po' diverso dall'improvvisazione di cui magari avevamo parlato l'altra volta del freestyle. Qui c'è proprio una cura sul contenuto e sulla metrica. È difficile fare una cosa così, assolutamente, palindroma, con due sensi diversi. Sono due dimensioni assolutamente diverse. Quella del freestyle è pura improvvisazione, top of the head, dicono gli americani, cioè direttamente dalla testa. Parte si tutto fuori dal cervello, l'abbiamo detto con Ensi, tuo collega. Assolutamente. E qui invece è un po' la dimensione opposta, cioè la costruzione lirica estrema, quindi una grande cura della... Ci deve lavorare tanto. C'è un grande lavoro dietro. Però diciamo che l'ascoltatore che ha voglia di approfondire sicuramente si sente gratificato poi nello scoprire queste cose. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'universo non esiste, è solo un beat di Fidmella. Il Big Bang era la cassa che crea ogni particella. Teorie catastrofiste ora si aspettano un rullante che quando colpisse sarebbe apocalisse all'istante. Io sono la voce che vi annichilisce, ingollo candeggine lisce, così la voce mi si schiarisce. Cambio il mondo con la forza delle idee. Se ho la luna storta, inverto le maree. Ramelatnato l'undice. Beh, anche qua ce ne sono di argomenti, Origine dell'universo, Big Bang, teorie catastrofiste, e poi vabbè, la luna, gli influssi lunari, un'aria, eccetera. Oh, sei preparatissimo. Sì, diciamo che appunto attingo molto all'immaginario scientifico e a volte anche fantascientifico. Ma abbiamo letto che leggi saggi di fisica teorica, è vero? È vero, cioè ti sei preparato, davvero. Mi viene in mente, vabbè, Green. Non so neanche come si pronuncia per farvi capire, però universo elegante, sì. Tutte questi saggi divulgativi. Davvero sei affascinato? Sono affascinato e devo dire la verità, trovo molto misticismo anche in queste teorie scientifiche fisiche estreme. Beh, insomma, sono un po' i fondamenti della nostra esistenza, ti rimandano a grandi pensieri. Esatto, sfociano spesso anche nella filosofia e nell'esistenzialismo, certo. Le teorie, quelle più spinte, quelle che si vogliono poi chiedere i fondamenti veri della realtà. Da dove viene sto tutto che abbiamo intorno? Esatto. E quindi questa profondità cerco di metterla nei testi. E ce la fai, direi. Brillantemente. No, ce ne sono altre canzoni. Io ne ho scelta qualcuna, devo dire, tra quelle che mi piacevano di più dell'album. L'amore ai tempi del New Era è, vabbè, a parte la citazione di Gabriel García Márquez, è una bellissima canzone giocata sui concetti un po' informatici, no? Un po' su. Sì, questa canzone parla un po' del modo che abbiamo al giorno d'oggi di vivere i rapporti sociali, anche quelli amorosi. E un pezzo molto ironico, in realtà nel disco ci sono diverse mie diversi miei approcci alla musica. Alcuni sono più personali, seri, profondi, altri sono assolutamente scanzonati, e comunque con una carriera abbastanza lunga alle spalle mi permetto anche di essere scanzonato, sapendo che chi mi segue capirà Io mi sono divertita molto, c'è anche tantissima ironia nei tuoi testi, devo dire, in alcuni passaggi sono proprio belli, simpatici da sentire. Anche divertenti. Del sarcasmo, sì, forse. Sì, sì, sì, assolutamente. Che è peggio dell'ironia a volte. E andiamo alla mia preferita, scusa, intanto sì. Vi leggo il titolo, aperta parentesi, x alla seconda più y alla seconda meno 1, chiusa parentesi, alla terza, meno x alla seconda, y alla terza uguale a 0. Ecco, esatto. non banale come te la sei studiata. Vabbè, un po' una provocazione, un po' una provocazione. Sanremo avresti qualche problema. Vero, vero, sì, il voto del pubblico sì. Però magari si bloccherebbe. Voto della critica. E no, diciamo che questa formula strana, rappresentata sul piano cartesiano, diventa un cuore. Ah. E quindi... Che meraviglia. c'è la rappresentazione sul libricino del... Sì, poi la trovate anche in internet, se la cercate, su Wolfram o su comunque anche su Google. E l'idea, infatti, è proprio quella di un pezzo d'amore... Però tutto in chiave matematica e fisica, soprattutto matematica. E dobbiamo sentire un po'? Sì, devo dire che è una fantastica canzone d'amore, dai. Però spiegata con la matematica. Te sei come un numero primo, non ti divido con nessuno, tranne che col numero uno, per questo mio stino ad essere il numero uno. Studio tutti i numeri che facciamo a letto, ci intersecchiamo sul piano cartesiano ad angolo. Cerco e analizzo la funzione del tuo seno. Parto per la tangente, te fai da sempre la differenza con me, segno meno. Non ci saremmo mai incontrati, siamo rette parallele. Ma all'infinito può incrociarmi, dimmi lì chi ci trattiene. Yeah, tu sei una dea, sfuggi ad ogni assioma della geometria euclidea. Non hai forma, sei un'idea, sei una variabile impazzita nell'equazione che descriva il sesso. Incalcolabile, approssimo il valore per eccesso. Ecco, senti, io prima ho detto è un lavoro difficile. Il lavoro, per esempio, di chi scrive, l'autore, il letterato, a volte è riscrivere anche 10 volte un intero libro. Dici un attimo, tu ci stai veramente tanto su questi testi? Sì, c'è una grande cura del particolare. Questa è una ricerca strepitosa, quella che abbiamo appena sentito. Sì, infatti, diciamo, c'è una prima fase di raccolta di materiale su un concept, su un'idea che deve essere comunque forte. E dopodiché, dopo questa raccolta, c'è il momento dell'assemblaggio. E rispetto a un letterato che deve scrivere un libro, poi questa roba deve pure suonare bene. Quindi, esatto, quindi c'è un livello di attenzione in più anche sulla gradevolezza all'ascolto. È una lunga progettazione, testo, musica, insomma, è un lavoro intenso. Assolutamente sì, e comunque diciamo che è una mia caratteristica particolare. Un po' tutti i rapper hanno questa attenzione alla metrica. Io cerco di metterci una dimensione in più, che appunto è quella del concept estremo. Cerco di spingere proprio ai limiti la lingua italiana. E ce la fai. A volte ti riesce molto bene, mi viene da dire. Magari cosa dici? In conclusione, ci dici due parole sul singolo, quello che tu ritieni forse sia la canzone un po' regina di questo album, Se salvi chi può? Sì, esatto. Noi siamo usciti con questo pezzo come primo singolo, che è un pezzo comunque sociale, che parla della situazione dell'Italia. Italia, che tutti bene sappiamo non essere delle migliori. C'è un invito a comunque a reagire. La cosa strana di questo pezzo è che comunque anche in questo pezzo convivono due opposti. C'è una base che è molto da club, si direbbe, un pezzo quasi ballabile, una cantata un po' più popolare, vogliamo dire, sì, un po' più pop. Un suono più facile, con un argomento però difficile. Quindi anche qui ho voluto mettere assieme due cose apparentemente inconciliabili per creare qualcosa di irripetibile, che fosse totalmente mio comunque. E assolutamente riuscitissimo. Allora, ricordiamolo, Mistaman, M-Theory, grazie davvero e ti aspettiamo al prossimo disco. Mi raccomando, tanta scienza, così puoi tornare a trovarci. Esatto, questo è il trick per cui potrò essere qui di nuovo. Mi sei prenotato un posto da noi. Ricordiamo a tutti che sei in tour nazionale per tutte le date. Si può consultare la tua pagina Facebook, oppure metteremo tutti i link disponibili sul nostro sito moebiusonline.eu, e ti salutiamo con la canzone Si salvi chi può. Si salvi chi può, si salvi chi può. Ciao. Fratelli d'Italia, l'Italia si è persa, l'inferno abbia inizio, è finita la festa. Lo spread che ci ingoia, la folla va in coma, è schiava di slogan, ma io scapperò. Si salvi chi può, scappiamo via da qui. Si salvi chi può, si salvi chi può. andiamo via da qui, fuggiamo via da qui. Se tu pensi che le cose in sta bellissima nazione non possano andar peggio, manchi di immaginazione. Tu studia il Kama Sutra perché qua appena ti muovi qualcuno riesce a fotterti sempre in dei modi nuovi. Le volte che ho creduto ad un politico italiano, trovandolo credibile, sentendolo parlare, se le conto stanno sulle dita di una mano, senza pollice, indice, mignolo e anulare. Io non vivo più in Italia, ma nel mio stato mentale ho importato della ganja perché tanto qui è legale. Sto in salotto tutto il giorno, c'ho il permesso di soggiorno, io la porto, tu passa, ti ho già fatto il passaporto. Fratelli d'Italia, l'Italia si è persa, l'inferno abbia inizio, è finita la festa. Lo spread che ci ingoia, la folla va in coma, è schiava di slogan, ma io scapperò. Si salvi chi può. Andiamo via da qui, fuggiamo via da qui. A Pistoia in questo weekend c'è una manifestazione, incontro culturale, dialoghi sull'uomo. C'è stata anche oggi sabato e ci sarà anche domani domenica. In uno di questi appuntamenti si è parlato di competizione e cooperazione nel regno animale e lo ha fatto Enrico Alleva, che è qui con noi questa sera. Buonasera Alleva. Buonasera. Lei è etologo all'Istituto Superiore di Sanità e membro dell'Accademia dei Lincei e da tanto tempo, insomma il suo nome è abbastanza noto, si interessa in particolare, certo, in questo caso di comportamento animale. In questa sua conferenza ha fatto un viaggio dalle meduse ai polpi, alla ricerca del rapporto sociale individuale. Di che cosa si tratta? Facendo una storia naturale darwiniana della mente umana, senza dare per scontato con l'arroganza antropomorfica di una specie che si è autodefinita Homo sapiens sapiens, mi chiedo dove nasca un'individualità tale per cui ci possa essere una socialità. E alla ricerca del primo momento negli esseri invertebrati, la medusa, quando diventa un essere, una storia evolutiva diversa dal piccolo polipo che costruisce gli atolli corallini, primo gruppo di cellule, di colonia che riescono a far pulsare la medusa e poi la medusa femmina dovrà incontrare il maschio, in qualche specie addirittura il maschio lascia uno sperma che, come uno spaghetto, e lì è l'inizio di questa lunga storia, sì, che poi arriva abbastanza velocemente negli invertebrati a quelle macchine sociali meravigliose che sono alveari, formicai e termitai. Però lei pone l'accento sull'individuo, cioè il soggetto singolo, anche quando è animale, oppure è proprio in generale la relazione, il comportamento sociale che la interessa? Lì si è parlato di cooperazione e competizione, quindi certo, è chiaramente un gruppo sociale, quello che noi chiamiamo setting. Il polpo, per esempio, è il più sofisticato, la mente più sofisticata della parte degli invertebrati, tant'è vero che è protetto come un vertebrato se uno fa esperimenti in laboratorio sul polpo, e però ha una socialità poco nota e molto complessa, anche difficile da studiare in natura e difficile da riprodurre in acquario. E però poi c'è tutta la grande storia innobile della società dei vertebrati, dai pesci, alcune famiglie come i pesci africani, la famiglia dei ciclidi, hanno delle cure parentali, i genitori si occupano amorevolmente, tra virgolette, dei loro figli. Poi ci sono i rettili e anche la ricostruzione della storia naturale degli rettili estinti. Oggi si è scritto molto su come i dinosauri costruissero nidi e accudissero i figli. E poi c'è l'esplosione della società complessa da una parte degli uccelli, grandi gruppi di storni che vediamo tutti gli inverni volare, le cure molto studiate, la etologia di tante specie di uccelli, e poi si arriva ai mammiferi dove i primati, diciamo, i macachi e i babbuini, che sono state le specie più studiate, ma poi a partire dagli anni 60 con gli studi condotti in natura dalle primatologhe prima di tutti Jane Goodall sugli scimpanzé, certo, in Congo, e poi si arriva all'uomo, l'uomo, il bambino, il neonato, che da qualche parte ha un fantasma nella mente che gli deve spiegare, per esempio, come trovare e succhiare un capezzolo, quindi anche quella mente lì ha bisogno di questo contatto sociale primigenio che è quello della madre. Enrico Leva, grazie. Ricordo che domani ci sarà anche, sempre a Pistoia, Dialoghi sull'uomo, Derek De Kerchove, un sofisticato analista della rete e di internet, che parlerà appunto di condivisione, trasparenza e appropriazione, le tre facce della rete. Grazie ancora Leva e buonasera. Buonasera. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cosa abbiamo scritto nei titoli? Abbiamo scritto un grande matematico indiano, un po' di storia sui segni matematici e una collana di ebook che stanno intorno ai 40k. Tutte queste cose stanno anche in fila e adesso nei prossimi minuti vi spieghiamo come. Incominciamo a farlo con Marta Fabbri. Buonasera Marta. Buonasera. Allora, lei ha scritto per questa collana di matematica delle edizioni 40k, cominciamo un po' a sciogliere questa cosa, ha tradotto una pièce teatrale Partition ed è stata scritta da chi? Da un autore teatrale americano che si chiama Ira Hauptmann, che sì, insegna al Queen's College a New York. Fa didattica, anche lei è nel campo della didattica, della costruzione di testi didattici, però qui si è divertita a fare questa traduzione. È una pièce dedicata a un personaggio veramente strano, un matematico indiano. Di chi si tratta? Di Ramanujan, così è noto ai più, insomma. Ramanujan. Siamo intorno a che periodo? All'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento. Diamo poche cose, poi dopo entriamo un po' più in profondità. Ramanujan si trova in quegli anni a Cambridge. Sì, facciamo magari anche un passettino indietro. Per i nostri ascoltatori. A Cambridge c'è un importante centro di matematica, il Trinity College, e lì lavora Hardy, che è uno dei più brillanti matematici del primo Novecento. Geoffrey Hardy. Esatto, a un certo punto Hardy riceve delle scatole, delle misteriose scatole di teoremi matematici da un personaggio che lui non conosce, che è un autodidatta indiano, che gli è stato presentato da dei colleghi in India, eccetera. A quel tempo il centro della matematica mondiale è l'Europa. È l'Europa. Quindi dalla periferia del mondo arrivano queste scatole di teoremi e ci sono dentro delle cose molto inconsuete. Sono dei risultati già noti che questo personaggio ha ritrovato, quindi ha per suo conto, indipendentemente, ha con tutto un suo percorso molto strano e non facile da capire, no? Esatto, e poi però ci sono dei risultati nuovi che Hardy reputa qualcosa di straordinario, di grandissimo valore. Però ci sono anche delle affermazioni false. Però si fermi qui, perché noi abbiamo ricostruito, già abbiamo preso un pezzo di questa pièce teatrale dove c'è, ecco, allora ci dica dove siamo. C'è un personaggio che si chiama Billington e c'è Geoffrey Hardy, che è il matematico. Loro dove si trovano? Loro si trovano alla tavola alta a Cambridge, quello che oggi chiameremo il campus, quindi sono a una mensa e mangiano, si lamentano del pollo che non è tanto... Che è fatto male. Esatto, non è tanto cucinato bene, mentre si lamentano del pollo parlano. Allora sentiamola, io in questo dialogo faccio la parte di Hardy, sentiamola. Io ai miei colleghi ho detto che non lo intendevi davvero, Hardy. Ne è giunta voce anche ai latinisti e ai grecisti di Cambridge? Eccellente. Erano sgomenti. Declamare 420 che di Eschilo resterà solo polvere, mentre i numeri primi vivranno per sempre, su via. Ma certo, i numeri indivisibili erediteranno la terra, sono belli come i cigni e numerosi come le formiche. Eschilo, nel frattempo, ha lasciato 7 opere più primitive di uno scarafaggio. Per me non è saggio essere visto in giro con te a Cambridge. Aiuterebbe se lasciassi da parte i classici, se dicessi che la matematica durerà più di Shakespeare? Ma certo che la matematica sopravviverà a Shakespeare. Il volgare è un capriccio passeggero. Pace fatta allora. Non ancora. Il pollo è asciutto un'altra volta. Mi sono scordato di lamentarmene la scorsa settimana. Ah, te lo sei scordato? Avevi in mente qualcosa di più importante del miserabile cibo della tavola alta? Su, andiamo. Qui non si tratta di graci morti. Si tratta di quanto è immangiabile il pollo settimanale di questo college. Beh, per lui non sarà un problema. È vegetariano. Lui chi? La persona che ho avuto in mente tutta la settimana. Com'è che hai in mente un vegetariano, Arti? A Madras è un semplice impiegato. Srinivasa Ramunajan. 26 anni, sbattuto fuori dall'università, mi ha spedito 4 quaderni di equazione che mi hanno lasciato senza parole. Cercane qualche altra. Centinaia di pagine in uno strano inchiostro verde, formule su serie ipergeometriche, frazioni continue, moduli singolari, funzioni ellittiche. Anche troppe parole ora. Forse ha copiato. Sono scritte in una notazione personalizzata davvero particolare. Ma sono corrette? Non ha incluso le dimostrazioni. Alcune cose le ho verificate, ma la valutazione di altre va oltre quello che riesco a fare. Oltre quello che tu riesci a fare? Mi ci sono scervellato tutta la settimana. Per questo ho dimenticato di scrivere la lettera sul pollo. La vita della mente è una scusa poco efficace, Ardi. Alfred, vorrei che tu potessi capire quanto è strano il suo lavoro. Dice che può dare un senso ai valori negativi della funzione gamma. Ramanujan dice di aver trovato una funzione che dà il numero esatto di primi inferiori a un numero dato. Ah sì? Sono cose impossibili. La sua ignoranza è vasta tanto quanto le sue conoscenze. Quindi il tuo campo è stato invaso da un rozzo barbaro senza istruzione che rotea lascia selvaggiamente. Che cosa eccitante! Che cosa sgradevole. Vorrei poterti dare un consiglio, ma i selvaggi non sono mai stati attratti dai classici. Nietzsche era attratto dai classici. Lui lo abbiamo spedito alla filosofia moderna, dove non poteva spaccare nulla di importante. Alfred, voglio portare Ramanujan qui, a Cambridge. Ti pare saggio? Mi pare essenziale. E pensi che verrà? Cosa glielo dovrebbe impedire? Ecco, Marta Fabbri, la conclusione è chiarissima. Ardi dice che questo è un personaggio che riesce a fare della matematica straordinaria, ma per esempio è uno che non sa sostanzialmente cos'è un teorema, quindi è veramente una cosa strana. Non sa nemmeno che cos'è una dimostrazione. E quindi Ardi decide che per il bene della matematica Ramanujan deve essere coltivato a Cambridge e quindi lo invita in Inghilterra. Mm. E addirittura Ramanujan, che è un personaggio molto religioso, mentre Ardi è un ateo, insomma, qui si individuano già molti tratti dello scontro di culture, di due modi di fare matematica, di due esseri umani così diversi che erano Ardi e Ramanujan, che sono al centro di questa pièce teatrale. Mm. Che è veramente molto bella, piena di cose anche tremendamente ironiche. C'è questo inizio sull'ovo maltina, Malta Fabbri, perché c'è Ramanujan che è in una stazione ferroviaria di Londra, tutto un po' malmesso, no? C'è anche delle caviglie tutte ferite e Ardi ha a che fare con un poliziotto che pensa che questo individuo sia un vagabondo. Siamo in realtà in un momento molto drammatico, c'è stato un bombardamento durante la guerra, insomma, e in questo momento drammatico Ramanujan si è quasi buttato sotto un treno e la ragione per cui lo ha fatto è che ha scoperto che nell'ovo maltina che l'ovo maltina non è vegetariana. E lui è vegetariano, come lui abbiamo sentito prima. Lui è vegetariano, appunto, è molto devoto alle divinità della sua famiglia, molto ligio alla tradizione, e il fatto di aver mangiato qualche cosa che non corrisponde al dettato della sua religione lo ha mandato in crisi totale. Dovete pensare che è che era in quel momento lontanissimo da casa, non aveva viaggiato, non era certamente un uomo di mondo, insomma era in grande difficoltà. Sì. Va bene, noi non entriamo più nei particolari perché questo ebook appunto è molto bello, quindi consigliamo di andarlo a scaricare dal sito di 40K. Grazie Marta Fabbri, buon lavoro. Buonasera, grazie a voi. E con Peppe Liberti invece parliamo di più e di meno. Ciao Peppe, buonasera. Ciao Federico. Allora, ci diamo del tu perché tu hai un background di ricercatore in fisica, però ormai sei diventato un divulgatore, un giornalista e quindi fai parte della nostra tribù. Più e meno nel senso letterale, cioè i segni matematici. Hai scritto un saggio denso, abbastanza breve per 40K. Ci sono delle cose decisamente sorprendenti, perché noi ci immaginiamo che questi benedetti segni più e meno facciano parte della storia dell'aritmetica da sempre. Non è così. No, non è così. i segni che noi conosciamo e utilizziamo nascono in un periodo ben preciso, che è subito dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Quindi siamo a metà del 400. Esatto, esatto. E quindi era tutta retorica. Ma cosa si faceva? Cioè, io ho visto un po' il tuo testo. Intanto non è che c'erano altri segni ben definiti, si usavano parole, ma di tutti i tipi, molto diverse anche da zona a zona. Sì, sì, sì. Soprattutto gli arabi usavano le parole, appunto la loro era un'algebra molto retorica, mentre i greci erano un po' più efficaci, usavano parole sincopate, termini brevi o le lettere dell'alfabeto, ma segni pochissimi. Segni pochissimi, il che vuol dire che com'è che si faceva di conto? Certo, per esempio sappiamo che per i romani era una roba drammatica fare i conti. Tu a un certo momento hai una parte che è dedicata al giustapporre, no? Sì, ce lo spieghi un attimo. Eh sì, perché loro avevano questa numerazione segnando le cifre con dei simboli, per sommare, che era l'operazione più semplice, mettevano le cose una accanto all'altra, quindi giustapponevano. Ma non è una... Che, e poi la somma come la si faceva? Niente. Era scritta e basta. Era solamente scritta, esatto. Proprio non si faceva di conto. No, non si faceva di conto, poi comunque c'erano tutta una serie di tecniche, per esempio per la moltiplicazione ce n'erano tantissime, che erano tecniche pratiche soprattutto, che si usavano nei mercati. Non a caso la prima formalizzazione di queste cose avviene nei manuali dei mercanti. Ecco, la cosa importante che tu dici in questo testo, ma è pieno di tante altre cose, è che non sono i matematici a tirar fuori i segni, che sono fondamentali per la matematica. Infatti, sono i mercanti perché hanno bisogno di fare in fretta. E devono sintetizzare, riuscire a fare le cose rapidamente, quindi per esempio il primo manuale di matematica stampa è un manuale italiano, l'arte dell'abbaccio, stampato a Treviso, sì, che mette in fila tutte queste operazioni perché hanno bisogno di fare rapidamente le cose. Dopodiché però diciamo una formalizzazione migliore nasce con i manuali che molti matematici dilettanti scrivono per i loro studenti. Ok. Va bene Peppe, allora Più e Meno è il titolo del tuo ebook, che si trova ovviamente sul catalogo di 40K. Grazie e buon lavoro. Grazie a te. Ciao. Ciao. Daria Benardoni, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, lei fa parte dello staff che dirige 40K. 40K vuol dire che fate cose tendenzialmente non più lunghe, una volta scritte, di 40K. Esattamente, sì. È un progetto editoriale di Book Republic nato nel 2010 che ha proprio lo scopo di puntare su tutti i vantaggi specifici che offre la tecnologia digitale per il libro. Quindi innanzitutto il contenuto breve. Noi siamo abituati che con la carta i contenuti sono diluiti anche un po' artificiosamente per raggiungere una fogliazione prestabilita. Media, esatto, commerciabile. Esatto, anche per rendere esattamente il libro finale disponibile a un prezzo che comunque per l'editore resti vantaggioso. In questo modo il formato breve viene molto penalizzato. Esatto. Invece ci sono effettivamente dei saggi, dei racconti che hanno la capacità di arrivare dritti al punto in una versione molto concentrata, quindi 40K fa di questo formato un po' uno dei suoi perni. Non è l'unico, perché oltre alla brevità ci sono altre caratteristiche che la tecnologia digitale abilita per il libro. Innanzitutto la velocità, il fatto di poter comunque pubblicare un ebook con tempi molto ristretti rispetto alla classica filiera cartacea ci permette anche di pubblicare temi di attualità, argomenti molto caldi, molto aggiornati. Io però ho visto il catalogo e non si pensi che siano così dei libretti simpatici e leggeri, ci sono anche delle cose molto dense, molto originali, molto strane, come per esempio queste due di cui abbiamo parlato. Penso che sia interessante la matematica, la collana. Penso che sia interessante, Daria, dire qualcosa sui prezzi, insomma siamo sempre 2,99 euro intorno a queste sì, cifre. Sì, allora la media in generale del catalogo è intorno all'1,99 perché abbiamo anche tanti 1,99? Come prezzo medio sì, poi nel caso del Partition di Marta, essendo una pista teatrale tradotta e di un certo tipo di valore, il prezzo raggiunge addirittura i 2,99 euro, ma diciamo che siamo comunque sì in una fascia economica veramente conveniente per il lettore. Tremendamente abbordabile soprattutto di questi tempi. Esatto, sì. Gli ebook sono disponibili su tutte le librerie online. Non c'è bisogno di andare, cioè al 40k come sito, c'è in tutte le ebook online. Sì, chiaramente sul nostro sito 40k.it ci sono tutte le indicazioni, anche sui link per trovarlo nelle varie librerie da Amazon, Apple, Kobo, Book Republic. Però qualsiasi lettore ha la possibilità anche di leggere l'ebook direttamente sul computer, se magari non è immediatamente convinto dell'ebook come formato di lettura. Ecco. Dario Bernardoni, grazie e auguri per il proseguimento della vostra attività. Grazie a tutti voi, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mia cara Chiara, sì. Qui è successo un fattaccio di cronaca nera. Brutto, brutto fatto. Incominciamo dall'inizio, ma cos'è che dobbiamo presentarvi? Dobbiamo presentarvi un team di geologia forense, insomma, sono tecnici che lavorano. Beh, adesso lo capirete il perché di questa definizione. Li abbiamo tutti e quattro in linea questa sera, però noi incominciamo, Chiara, dall'inchiesta, come se percorressimo velocemente una inchiesta. Come tecnicamente credo loro come poi tecnicamente lavorino. Avviene. Allora, noi incominciamo con Rosa Maria Di Maggio. Buonasera, Di Maggio. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, agli inquirenti è arrivata una spifferata, un'informativa, tipicamente sa di delitto di camorra. In un certo territorio devono esserci un corpo o più corpi, insomma, no? Allora, qui bisogna incominciare a capire dov'è. Sepolti. Dove sono sepolti. Certamente. Inizialmente, in via preliminare, si svolgono delle indagini sul territorio per capire sia la geologia e la morfologia del territorio. Questo si può fare facendo sia delle ispezioni sui luoghi o anche laddove non vi sia la possibilità di accedervi in maniera semplice, si possono fare delle riprese aeree da drone. E quindi delle fotografie che possano identificare delle piccole porzioni di territorio ove evincere delle particolarità sia geologiche che vegetazionali. Per esempio terra smossa? Esattamente, terra smossa, vegetazione, porzioni di vegetazione differente da quella circostante, individuati delle porzioni di territorio interessanti, allora si può svolgere una ricerca più approfondita sul posto. Perché, questa mi scusi, ricerca... se è stata smossa della terra e poi hanno rimesso su in qualche modo i cespugli, però in realtà quella vegetazione cambia. Rispetto... È un po' irregolare forse. Diventa irregolare o addirittura muore, non lo so, c'è qualcosa. Assolutamente, allora può diventare sicuramente irregolare rispetto alla vegetazione circostante. Muore non è detto, anzi a volte potrebbe crescere ancora più rigogliosa. Sì, abbiamo capito, certo, è ovvio. È ovvio. Quindi lei ha detto... una concimazione naturale. Una bella concimazione. Droni, quindi lei diceva, analisi del territorio, anche qualcos'altro? In questa prima fase preliminare è questo, dopodiché si va sul posto utilizzando diverse tecniche, sia strumentali e anche utilizzando squadre, organizzando le ricerche con squadre di cani da cadavere. I cani da cadavere sono cani che sono stati addestrati a riconoscere gli odori della decomposizione, quindi dei fluidi emessi dal cadavere. Quindi arriviamo sul posto e allora andiamo da Elena Pettinelli, che è geofisica, intanto benvenuta, che ci racconta che cosa succede a questo punto lì. A questo punto, quando interviene il geofisico, innanzitutto deve fare delle considerazioni, assumendo che si sta cercando un cadavere sepolto. Le prime considerazioni da fare sono quelle del materiale, perché il geofisico deve scegliere la tecnica, poi si vedrà che alla fine è una delle tecniche più importanti e diciamo più sicure per questo tipo di ricerca, il georadar. Però all'inizio quello che deve fare un geofisico è valutare il materiale su cui si lavora, quindi il terreno, perché alcune tecniche fisiche non sono adatte per alcuni terreni e sono adatte per altre. A questo punto, diciamo, fra una rosa di possibilità ne sceglie alcune sceglie anche in base un po' alla topografia, alla situazione, l'asperità, è un posto complicato su cui lavorare o no, e alla fine sceglie uno o più tecniche, diciamo sostanzialmente se non ci sono condizioni particolarmente complicate per il georadar, si tende a scegliere il georadar. Ecco, che cos'è? Allora, il georadar è una sorta di sonar che invece di inviare onde acustiche invia nel terreno onde elettromagnetiche, e queste onde elettromagnetiche interagiscono con i materiali all'interno del terreno e vengono riflesse da tutte quelle differenze geologiche che sarebbero l'equivalente di differenze di tipo elettromagnetico. Quindi alla fine quello che si ottiene è un'immagine come si potrebbe ottenere una sorta di tomografia. Ah. Quindi il terreno si fa un'immagine che però non è un'immagine come la pensiamo noi, cioè non è un'immagine come l'occhio vede, ma certo, un'immagine deformata. Certo, come vediamo nelle anche ecografie, insomma, cioè si capisce però che c'è un corpo lì sotto. Esattamente, beh, più che si capisce che un corpo, quello che si va a cercare di solito è lo scavo. Lo scavo. Perché il fatto che il terreno sia stato scavato è stata cambiata la densità, e questo è un parametro fisico che è molto ben visibile dalle onde elettromagnetiche. Quindi alla fine si va a cercare più lo scasso che il corpo. Ok. Se però appunto le cose funzionano e quindi si capisce che ci sono dei corpi, interviene il geoarcheologo Matteo Barone. Buonasera. Voi lì fate un'attività come per esempio quando si scoprono, è accaduto in Perù negli ultimi anni, le mummie antiche, no? Voi fate un lavoro analogo. Esatto. La cosa fondamentale è che grazie alle informazioni ottenute dallo studio del territorio, grazie alle informazioni ottenute dai geofisici, il geoarcheologo riesce a localizzare la zona di azione e a quel punto non si mette a fare uno scavo arbitrario, quello che viene chiamato scavo arbitrario, ovvero togliere la terra e arrivare al corpo sepolto in questo caso, ma procede con uno scavo, quello che viene chiamato scavo stratigrafico, sì, ovvero rimuove i suoli che si sono accumulati al di sopra del corpo sepolto, perché possono dare una serie di informazioni. La prima fra tutte è una sorta di datazione relativa. Quando è stato messo lì dentro, quando è stato sepolto, sì. Esatto, perché io se trovo al di sopra del corpo sepolto in uno strato, per esempio uno scontrino che ha una data, certo, facciamo caso, sicuramente il corpo che si trova al di sotto sarà stato seppellito prima del 2000. Ah, certo, uno scontrino che non c'entra con la sepoltura, lei dice, però esatto, è un esatto, dato. Perché può essere finito nell'accumulo di terra nel corso degli anni. E nello stesso modo si potrebbero invece ritrovare oggetti appartenenti ad esempio al killer, insomma a chi l'ha sepolto. Esatto, nel momento in cui si arriva allo strato di pertinenza criminale, diciamo, bisogna fare molta attenzione, perché si possono trovare una serie di informazioni sia legate alla vittima sia legate all'eventuale killer. Ma voi capite anche, a seconda di come è messo il corpo, di come ha potuto essere la dinamica del delitto, come è stato ucciso? Può ipotizzare se il corpo è stato per esempio ucciso in un luogo, trasportato con la macchina in un campo e gettato rapidamente, creata una fossa rapidamente, allora il corpo avrà una determinata forma, magari accoccolata, diciamo, ripiegata su se stesso. Se invece il killer ha avuto tutto il tempo di seppellire, ovviamente la sepoltura sarà più lineare e allungata, ecco. E adesso invece andiamo da Simonetta Lambiase, che è entomologa, perché anche gli insetti e le larve che si trovano ovviamente in prossimità e sul corpo della vittima ci danno moltissime informazioni. Danno molte informazioni, effettivamente. Noi sfruttiamo i comportamenti degli insetti, che sono estremamente precisi e condizionati dall'ambiente nel quale vivono e dalle temperature, ad esempio, nelle quali crescono. In modo particolare, data la stretta corrispondenza tra un habitat e la tipologia di insetto, va da sé che un corpo inumato avrà come caratteristica la possibilità di essere colonizzato soltanto da alcuni gruppi di insetti e non da quelli che sono tipici della superficie. Quindi, oltre al calcolo dell'intervallo postmortale, che è la finalità prima dell'entomologia forense, in questo caso è possibile anche cercare di capire se questo cadavere è stato inumato immediatamente dopo il decesso o se è stato ad esempio trattenuto in una zona aerea e quindi si è avuto la possibilità di essere stato colonizzato da insetti tipici di altro ambiente, ambiente di superficie. Quindi le valutazioni che possono essere fatte sono molteplici. Sicuramente il lavoro del collega che asporta in modo stratigrafico le porzioni di terreno sono molto utili anche a noi entomologi, perché sarà nostra cura poi cercare attraverso setacciamento o comunque analisi delle varie successioni, la sedia praticamente stratigrafica, trovare appunto in esse i reperti entomologici che possono essere estremamente utili a dare indicazioni della sequenza delle colonizzazioni da parte di questi insetti del corpo. Oh, Di Maggio, Pettinelli, Barone, Lambiase, a questo punto dovete dirci chi è l'assassino, però non avete idea, non avete nomi. Non abbiamo nomi, sicuramente possiamo trovarlo, poi l'identificazione deve essere fatta dagli inquirenti servendosi di altre professionalità, tra cui il genetista forense, per esempio. No, la cosa interessante, chi stava parlando, Di Maggio? Sì. Ecco, la cosa interessante è capire in che modo voi venite chiamati, cioè nel momento in cui si riceve insomma la segnalazione, gli inquirenti vi chiamano immediatamente. Sì, certamente, è ovvio che gli inquirenti ci chiamano qualora hanno coscienza delle potenzialità delle geoscienze forensi e delle materie afferenti alle geoscienze. Purtroppo a tutt'oggi ancora molti magistrati non conoscono ancora bene le potenzialità del nostro lavoro. Mi pare che sia un sistema molto efficiente, efficace, certo. Efficace. Niente, come si suol dire, no, non lo diciamo buon lavoro, cioè, no. Occupatevi di altro, poi insomma se ci dovesse essere l'occasione sarete in qualche modo efficaci. Insomma. Sì, certo, ringraziamo molto. Grazie, arrivederci buona a ricerca. Tutti, buona serata. Buona serata. Arrivederci. Grazie, buona serata. Sì, non puoi augurare buon lavoro a quelli che fanno questo. Il blog. Ecco, sì, allora, diciamo a tutti che abbiamo aperto il blog sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e già tra poco potete trovare il video dell'intervista di Mistaman che abbiamo fatto poco fa. Grazie a tutti, buona settimana. Buona settimana a tutti.